Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, l'ultima puntata della settimana. Una buona giornata a tutti, una buona giornata anche sul mercato, almeno sembra una giornata tranquilla, non devastante come quelle che abbiamo visto una settimana fa, il venerdì nero e poi un altro lunedì nero. A metà settimana però le borse hanno provato il rimbalzo e così hanno tentato anche di fare i titoli di Stato, che pure già lo avevamo visto negli ultimi mesi, ma particolarmente in questa settimana sono letteralmente finiti sulle montagne russe. Il sereno è durato poco, ieri di nuovo sui listini sono tornate le preoccupazioni, oggi c'è una grande incertezza, probabilmente la giornata si manterrà così, ad occhio, da quello che posso capire. Forse una reazione più incisiva ci sarà lunedì, perché oggi vengono comunicati i risultati degli stress test su 91 banche europee, per cui siccome i risultati vengono comunicati alle 18 a borse chiuse, oggi non ci sarà reazione almeno su questa notizia da parte del mercato. Ma quali sono stati, tanto per fare un riepilogo, gli altri motivi delle tensioni degli ultimi giorni? Intanto, ricordiamolo, le aste dei titoli di Stato in Italia hanno registrato i rendimenti più elevati degli ultimi 3 anni, provocando complessivamente nuove turbolenze sul mercato dei BTP. Poi il comportamento delle agenzie di rating, Moody's e stanotte anche Standard & Poor's hanno messo in guardia gli Stati Uniti, che hanno un debito gigantesco e non riescono a trovare l'accordo politico al Congresso per aumentarne il tetto massimo. Altri fattori di tensione, le trattative per il salvataggio della Grecia sono tutt'altro che alla conclusione, e poi sempre notizie dagli Stati Uniti, il presidente della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, Bernanke, ha fatto capire che nuove manovre di stimolo monetario non arriveranno, o non arriveranno tanto a breve. In realtà prima aveva fatto capire che forse un nuovo piano di stimoli ci poteva essere, nelle ultime ore ha ritrattato, insomma navigano un po' tutti a vista. E allora i mercati restano tesi, come ci comportiamo in fasi come quella attuale? È il tema che, come sapete, intanto lo voglio ricordare, sta cavalcando da molti giorni a questa parte il Sole 24 Ore. Ha organizzato anche addirittura un vocabolario con le parole della crisi e si sta cercando anche di dare qualche indicazione pratica ai risparmiatori su come comportarsi, appunto, in un momento come questo in cui bisogna tenere davvero i nervi saldi. C'è anche un altro fenomeno in corso, lo sapete, la ricerca di sicurezza, che è molto forte da ormai un paio d'anni a questa parte, ma questa ricerca di sicurezza, di protezione massima del proprio risparmio, sta riportando molti risparmiatori di nuovo verso l'oro, per esempio, ieri salito di nuovo ad un massimo storico a 1594,16 dollari l'oncia, per essere ben precisi. E poi c'è questa anche tendenza sulle valute, che pure dimostra come gli investitori cerchino sicurezza, protezione. Ci sono massimi su massimi del franco svizzero nei confronti, per esempio, delle altre divise internazionali. Detto questo, anche noi oggi riprendiamo questi temi: come possiamo indicare strade tranquille da percorrere ai piccoli risparmiatori, che almeno, a giudicare dalla novità di ieri della manovra finanziaria, hanno scongiurato l'aumento dell'imposta di bollo sui dossier titoli, quelli che hanno un portafoglio al di sotto dei 50.000 euro. Quelli più ricchi invece pagheranno un'imposta un po' più salata. Allora, grazie di essere ritornato a Salva Danaio, a Mario Spreafico, direttore investimenti di Schroders Private Banking, bentornato. Grazie, buongiorno. Abbiamo in collegamento telefonico invece dalla Svizzera Francesco Tarabini Castellani, responsabile per l'Italia di Banca Vontobel. Buongiorno e benvenuto e bentornato anche a lei. Buongiorno a tutti. Grazie. Allora, io ricordo ai nostri ascoltatori che naturalmente possono interagire con noi confrontandosi con noi sui temi del momento che vi stanno per certi versi appassionando, per certi versi naturalmente preoccupando, perché tutti non siamo molto tranquilli rispetto a quello che vediamo, però cercheremo anche di trovare delle ragioni di tranquillità. Potete interagire con noi all'800 24 00 24, scriveteci al 349 238 6666 se volete, oppure all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Parleremo di mercati per tutta la puntata, vediamo però adesso cosa accade. Parigi -0,3, Francoforte -0,20, Londra -0,05, Milano +0,09, Milano ancora la piazza più indecisa d'Europa, è partita con un ribasso di un punto, poi lo ha recuperato tutto, è arrivata a guadagnare lo 0,3, lo 0,4%, non mi ricordo bene, adesso ha riperso di nuovo questo guadagno. Mercato italiano preferisce stare fermo sulla parità in attesa forse di indicazioni anche americane nel pomeriggio. visto che ieri addirittura Ben Bernanke al congresso americano si è sbilanciato a parlare della situazione italiana. Allora, il miglior titolo di Piazza Affari è il Banco Popolare, che sta guadagnando il 4%, Mediaset più 3,90%, Popolare di Milano più 3,35%, abbiamo Pirelli in rialzo del 2 Fiat più 1,57%, Luxottica più 1,34%, Unicredit più 1,29%. In calo STM meno 2,7%, Mediolanum ancora in difficoltà per l'apertura del fascicolo da parte della Procura di Milano su una possibile fuga di notizie in merito all'inchiesta P4. Il titolo perdeva in avvio 4,5 punti, adesso è a meno 2,5. Enel meno 1,12%, Telecom meno 0,8%, Diasorin meno 0,8%, Enel Green Power meno 0,7%. Questi i principali temi della seduta, con l'euro che sul dollaro quota 1,41,63. Andiamo a vedere anche lo spread fra il BTP decennale e il Bund tedesco, quindi il differenziale di rendimento fra il nostro titolo decennale e il benchmark europeo. Siamo sempre sui 300 punti base. In questa mattinata la forbice fra i due titoli si è allargata a 296 punti, quindi i rendimenti al rialzo al 5,68%. Allora, Mario Spreafico, che cosa pensi di tutto quello che sta accadendo sui mercati in questi giorni? Parto così con una domanda estremamente larga, poi andremo magari a circoscrivere a qualche argomento specifico. Ma credo che siamo ancora di fronte a quelli che sono gli effetti di ciò che è stato il 2008, che non è stato uno scherzo. Si è pensato durante il 2010 di assistere a un recupero, quindi a voler quasi dimenticare quella che è stata la crisi del 2008, che ha colpito, partita dagli Stati Uniti ma diffusa poi in tutto il mondo. Quindi siamo ancora di fronte a queste scosse di assestamento, scosse che possono essere più o meno violente, e credo che obiettivamente emergano comunque ancora quelle che sono queste debolezze che nascono dalla costruzione di questo nuovo mondo finanziario, che ormai è stato posto in discussione in questi ultimi 3 anni. L'aspetto principale io non credo che riguarda solo esclusivamente l'entità, l'organizzazione del sistema finanziario in sé, che è stato effettivamente in parte esasperato da questo eccesso di finanziarizzazione. Cioè, quindi abbiamo visto un mondo di, ad esempio, di materie prime che fino agli anni 80 erano solo, quasi solo, un mercato dedicato a operatori del settore. Oggi sono la maggior parte operatori finanziari che operano in un comparto che può, in linea di massima, attraverso le sue variazioni violente, mettere anche in crisi delle economie. Possono essere il caso, ad esempio, delle materie prime agricole. Sappiamo quale può essere l'effetto anche da un punto di vista sociale. E anche inflazionistico. E anche, chiaramente, di carattere macroeconomico. Il tema principale qui che si punta, e possiamo fare tantissimi ragionamenti per quanto riguarda gli aspetti di solidità o meno degli stati, quindi questo trasferimento dal debito dei privati, dal debito delle banche ai debiti degli stati, si possono fare tanti ragionamenti, ma la risposta è una sola in questo momento e deve essere politica. Il problema non è un problema di singolo Stato, cioè uno Stato che ha più o meno debolezze rispetto ad altri, ma in questo caso quello che è stato dimostrato al mondo finanziario, che non è di certo un mondo locale, ma è il mondo più globalizzato in assoluto, quindi è stata la prima vera e propria espressione di globalizzazione, quindi di mercato senza barriere, è quella di una voce politica in Europa molto debole. Quindi siamo ancora, dopo parecchi mesi, a cercare di risolvere e capire questa situazione greca, che più volte è stata annunciata con grandi proclami, tentativi di salvataggio, o meglio tamponate delle situazioni, ma la vera situazione di soluzione di fondo non è ancora stata data. Questo io credo che è il vero problema. Non ho nessuna preoccupazione per quanto riguarda l'Italia. Noi abbiamo investito in Italia, stiamo investendo e continueremo a investire. Crediamo che sia ancora uno di quei paesi che, fino a prova contraria, siamo una delle prime 7 economie del mondo, la terza in Europa, abbiamo un tasso di ricchezza pro capite tra più elevati al mondo. Quindi io credo che quello che sta avvenendo sia esclusivamente, forse non vorrei estremizzare il concetto, ma forse la battaglia finale sull'euro, cioè quindi capire se l'euro ha una voce politica unica, cercare di ricostruire questa governance europea, perché se dovesse essere colpita l'Italia in modo molto più incisivo, io credo che verrà messo in discussione proprio questo tipo. Visto che mi ha aperto la parentesi sull'Italia, le chiedo allora subito a bruciapelo se ritiene che la manovra economica, che oggi dovrebbe avere la fiducia anche da parte della Camera, lunedì supererà la prova del mercato o rivedremo di nuovo lo spread rivolare abbondantemente abbondantemente sopra i 300 punti base tra il BTP e il Bund tedesco. Rivedremo ancora tensione sulle banche a Piazza Affari lunedì. Che cosa succederà? Ma io credo che sicuramente la manovra è ben venga, ben accolta, è un aspetto, era una condizione necessaria affinché proseguire nella via della stabilizzazione dei conti pubblici, però non è sufficiente, perché il problema italiano non è un fenomeno italiano, è un problema europeo, quindi il tema vero, il tema fondamentale è capire se questa governance europea riuscirà a trovare una soluzione al problema ancora che sta a fondo, quindi al problema Grecia. Una volta trovato un commitment, quindi una soluzione di compromesso ma credibile a livello europeo, io credo che anche il fenomeno, questa situazione Italia rientrerà. Certamente noi dovremo ancora lavorare molto per risistemare quello che è i nostri conti, anche se da un punto di vista l'unico nostro tema è questo grosso debito pubblico, che pone anche le condizioni al mercato internazionale di essere oggetto di scorribande sui titoli di Stato, perché è uno dei mercati più liquidi al mondo, ci sono tantissime condizioni, abbiamo un listino di borsa che è mal assortito, quindi banche molto grosse, estremamente liquide, quindi si crea un terreno fertile a questo tipo di cose. Ripeto, sicuramente la manovra è un segnale importante, ma non risolve il problema che sta a fondo, che non riguarda noi italiani, ma riguarda veramente l'Europa. Francesco Tarabini Castellani, Banca Vontobel, ci spiega come ci guardate dalla Svizzera in questo momento? Naturalmente lei è un italiano, però rappresenta un'istituzione appunto finanziaria elvetica, e soprattutto come guardate ai nostri titoli di Stato in questo momento? Per esempio la vostra banca ne sta acquistando, ci state aiutando a sostenere un livello abbastanza gestibile di rendimento, oppure siete preoccupati anche voi, ci guardate con un pochino di apprensione dalla Svizzera? Assolutamente, diciamo che gli svizzeri, poi in realtà appunto come dicevi sono assolutamente italiano, ma hanno un po' questo vantaggio di essere in Europa, ma avere la facoltà a volte di guardarla un po' con occhio un po' più distaccato e freddo, e forse con più flemma, ma anche così tranquillità in momenti di tempesta come quello attuale. Poi pensando anche a detti di, pensiamo dei gestori più importanti, Warren Buffett, l'uomo più ricco del mondo, che quando parla di Mr. Market, il signor mercato, lo definisce un umorale, quindi dobbiamo sempre ricordarci poi che il mercato e la speculazione hanno una volatilità che si discosta completamente da quello che sono i fondamentali dell'economia. Noi riteniamo assolutamente che vi sia un eccessivo pessimismo con riferimento all'Italia. Ci si è trovati al centro un po' di una tempesta perfetta, acuita anche dalle recenti problematiche di tipo politico, ma non dobbiamo scordarci che l'Italia è un paese ben diverso dalla Grecia, il Portogallo o l'Irlanda. Questi tre ultimi non compongono neanche il 6% del prodotto interno lordo della zona euro, e quindi è assolutamente di dimensioni completamente diverse. Riteniamo al contrario che magari questa sia l'occasione, questa speculazione cattiva se vogliamo, per così, noi italiani siamo sempre atti a fare un colpo di reni all'ultimo momento, per compattarci e riuscire a mandare a piedi un risanamento che sappiamo ben tutti è l'unico vero passo importante da compiere. Con riferimento al mercato obbligazionario, senz'altro sono passi interessanti, cioè i miei colleghi svizzeri stanno pensando, hanno già iniziato forse a investire sul debito italiano. Se lo analizziamo brevemente come scadenze, vediamo che i due anni hanno uno spread, questa mattina vedevo intorno ai 270 punti base, che si allarga addirittura nel segmento 5 anni fino a 317-320, per poi restringersi sul decennale, quindi il mercato sta scontando anche a breve un teorico fallimento dell'Italia, che sinceramente è assolutamente impensabile, noi su questo siamo totalmente diciamo certi, e in questo senso a breve termine è senz'altro un'occasione di investimento. Cosa diversa è spostarsi sul 5-10 anni, allora un investitore deve chiedersi, ma questo 5% di rendimento perché mi viene concesso? Perché vi è un effettivo rischio, e quindi a questo punto si deve chiedere quali alternative ci possono essere a questo rischio. Intanto mi stavo distraendo con un ascoltatore che ci ha scritto: cara Debora, oggi con i tuoi ospiti facci capire la tassazione sulle rendite finanziarie si rimarrà al 12,50 o al 20%, non credo che sia stato ancora alcunché chiarito dal governo da questo punto di vista, che l'unica cosa che ha fatto il governo ha rimodulato per la terza volta nel giro di pochi giorni, ma era necessario farlo. La nuova imposta di bollo sui dossier titoli, che sono appunto molto graduali a seconda del portafoglio detenuto. Vi anticipo già che la prossima settimana, tamburo battente, ci occuperemo con Salvadanaio di questi argomenti. Dateci modo di avere qualche dettaglio in più, perché come sapete su questi temi abbiamo già fatto 3 trasmissioni e ogni volta la trasmissione era diversa perché i dettagli erano differenti. Per cui, caro Roberto, da Macerata abbia pazienza ancora per un paio di giorni. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Si è capito, si è aperto negli ultimi giorni, così il capitolo, tutti impegnati, tutti concentrati sulla situazione del debito sovrano europeo, si è aperto invece adesso il capitolo anche americano, che sarà probabilmente risolto al photo finish, come dicevo, entro il 2 agosto, però di fatto anche quello è un versante da non trascurare, direi. Franco da Udine ci dà con la sua domanda l'opportunità di aprire anche questa parentesi, che poi affronteremo accuratamente nella seconda parte della trasmissione. Franco, buona giornata. Ecco, buongiorno. E volevo proprio chiederle questa situazione americana. Cosa ne deriva a noi piccoli risparmiatori? Come possiamo ripararci? Ah. Abbiamo forse paura di un altro 29 in corso? Cioè, come può muoversi un piccolo risparmiatore? Perché parlate sempre di cifre, di questo e l'altro, però vediamo che non riusciamo a capire quasi niente. Ma Franco, lei perché è appassionato, come dire, della situazione americana? Perché comunque ha anche magari un portafoglio di investimento differenziato con anche i titoli del debito statunitense? Perché comanda un po' l'economia mondiale. Certo. Per l'America mitalta, noi italiani cosa facciamo? Cioè, ma io dico, il piccolo risparmiatore dove va a pararsi? Cioè, perché le grandi manovre vanno bene fatte, c'è sempre l'esperto che risponde, ma l'esperto anche che informa. Noi siamo sempre gli ultimi e subiamo il tutto quando è già tutto fatto, insomma, ecco. I grossi temi, ma guardi, abbiamo imparato da questa crisi che anche i grossi non ne rimangono per niente indenni poi dai fenomeni quando in maniera così travolgente investono il mercato, e l'abbiamo visto drammaticamente con Lehman Brothers. Siccome quella situazione là nessuno vuole vederla, di sicuro non succederà niente negli Stati Uniti, però anche lì devono dare prova di coesione politica, e anche lì la situazione non è facile averla. Il riepilogo della settimana sui mercati finanziari, una settimana che ci ha reso un po' tutti nervosi, e c'ha, ovviamente il mercato ci ha trasmesso tutto il suo nervosismo. Avete visto quello che è successo venerdì nero, lunedì nero, poi sulle montagne russe i titoli di Stato, 2 aste molto importanti per le 2 appuntamenti con diverse aste molto importanti per il Tesoro italiano, che hanno trovato una buona risposta da parte del mercato, ma il Tesoro ha dovuto riconoscere rendimenti in forte rialzo, perché ovviamente gli investitori si sono fatti più severi nelle richieste verso l'economia italiana. Detto questo, a furia di parlare di Europa, abbiamo forse un po' trascurato come dibattito, ma adesso sta tornando prepotentemente a galla, la questione invece dell'attenzione sulle trattative per innalzare il tetto dell'indebitamento americano. C'è una scadenza il 2 agosto, se entro questa data non si trova un accordo fra Partito Repubblicano e Partito Democratico, si rischia addirittura un default storico. Mario Sperafico, Schroeder's Private Banking, io penso che una situazione del genere nessuno la vorrebbe vedere. Soprattutto Franco da Udine ci ha chiesto, ma insomma, noi come ci possiamo proteggere da tutto questo? Se succedesse una cosa del genere, dovremmo andare tutti, non lo so, su Marte? Ovvio. Detto questo, insomma, siamo come al solito a livello di schermaglie politiche. Assolutamente. Credo che parlare di default degli Stati Uniti è un po' uno slogan provocatorio, cioè d'altra parte questa parola, che è stata anche tra l'altro scritta in molti giornali americani, ha fatto sì che l'opinione... Adesso si parla con tanta leggerezza di default degli Stati sovrani, come se... No, ma tra l'altro ecco questa provocazione, direi questo slogan utilizzato da qualche mese negli Stati Uniti, ha permesso per la prima volta di aumentare il grado di attenzione degli americani sulle tematiche legate questo contenzioso politico tra maggioranza e opposizione negli Stati Uniti per rientrare di questi parametri di debito. Diciamo, gli americani che si sono sempre, quasi sempre disinteressati degli aspetti, diciamo, di politica economica, o meglio politica fiscale, il grado di attenzione è molto elevato, quindi questo perlomeno è servito a questo, quindi hanno anche loro le loro, diciamo, difficoltà e diciamo processi anche di far capire alla gente, far cercare di partecipare le persone alla politica. Per perlomeno da un punto di vista di comunicazione. Credo che questo sarà veramente una questione inverosimile. Certamente la finanza pubblica americana è una finanza molto particolare, cioè il tagliare le spese o aumentare le tasse ha dei risvolti che possono sicuramente avere sulla crescita. Essendo l'economia più flessibile da un punto di vista economia di mercato, più flessibile al mondo, certamente il nocciolo della questione è l'attenzione sulla crescita americana, che è l'elemento fondamentale che ancora viaggia a livelli interessanti, e questo il dibattito cerca proprio di evitare che si possa in parte rallentare o castrare questa ripresa. Io non credo una situazione di compromesso ci si troverà. Certamente anche gli Stati Uniti hanno molto da lavorare da un punto di vista di riorganizzazione non solo dello Stato ma anche del sistema finanziario. Mi permette tutta questa serie di considerazioni di introdurre anche l'altro tema che si sta guadagnando da qualche settimana a questa parte la ribalta della cronaca, cioè il comportamento delle agenzie di rating. Francesco Tarabini Castellani, continuano a promettere Moody's e Standard & Poor's che declasseranno il debito americano, al momento ancora considerato super solido, AAA per tutti, però di fatto addirittura si parla di possibili default se un accordo al congresso non viene trovato fra qualche giorno. Le è piaciuto il comportamento delle agenzie di rating negli ultimi periodi? Che ci hanno a noi ridotto completamente a spazzatura, noi intendo Europa, dal Portogallo all'Irlanda, alla Grecia, e anche con noi sono stati molto molto rigidi. Di là però, insomma, è fallito il Minnesota proprio ieri, la bancarotta della California è nei fatti, non è nelle parole, però di fatto c'è anche una situazione appunto di tracollo finanziario per quello Stato. Ma io, come dico da un po' di tempo, rischio di inimicarmi qualcuno, non ho mai provato particolari simpatie in esplicito per le agenzie di rating, tuttavia bisogna anche rendersi conto che la colpa non è solo loro, nel senso che alla fine sono degli organismi privati che il mercato ha visto crescere e costituirsi di fatto in una situazione di oligopolio, però siamo comunque in situazione di mercati liberi, non è il mondo, non è la Cina, non è la Russia, non è un'economia controllata, di conseguenza se non si è riuscito ad esprimere delle agenzie contrarie e contrastanti a questo potere che è centrato senz'altro sull'America è un po' un dato di fatto, e in questa situazione senz'altro loro esprimono quello che è l'uno di più di un parere, di una loro valutazione personale. Secondo me l'accusa va più rivolta verso la comunità internazionale finanziaria che ha praticamente portato queste valutazioni, questi rating a un giudizio quasi divino calato dall'alto, ed è qui il vero errore, perché se da una parte è chiaro che queste agenzie sono in conflitto di interessi, voglio dire anche il debito americano come quello europeo sono grossissimi problemi, adesso non voglio divagare troppo, però non scordiamoci che stiamo vivendo un cambiamento epocale degli equilibri geopolitici mondiali, cioè non dimentichiamocelo, gli Stati Uniti hanno un problema, l'Europa ha un problema, la Cina e l'Asia stanno avanzando, questa è la picture di fondo. Detto ciò, nello specifico è chiaro che questi sosterranno, cioè se abbattessero, se arrivassero ad abbattere la valutazione degli stati che li ospitano, avrebbero senz'altro un grande problema. La proposta avanzata tra l'altro recentemente da più parti della creazione di un'agenzia europea per controbilanciare il parere delle americane, io concordo, devo dire, con Mario Draghi che sinceramente sarebbe poco credibile, perché cosa creiamo, un'agenzia emanazione degli stati per valutare il nostro stesso debito, e quindi credo che non sia un rimedio a questa situazione. Concordo che va diminuita l'importanza del loro rating, come peraltro un progetto che il Financial Stability Board, sì, ancora sotto la guida di Draghi, aveva e sta mandando avanti negli ultimi tempi. Allora, se vuole rispondere anche Tarabini Castellani alle sollecitazioni di Franco da Udine, che lui dice comunque noi siamo dei piccoli risparmiatori, leggiamo queste notizie, ci sembrano tutte molto preoccupanti, abbiamo sempre la sensazione come piccoli risparmiatori di non poterci proteggere da niente. Ma allora, non vorrei essere cattivo, però cito, mi permetto di citare il mio presidente onorario, il dottor Hans von Tobel, della nostra omonima banca, che ha 94 anni ma è ancora molto arzillo. Lui dice sempre, è fondamentale ascoltare diverse opinioni, ma non possiamo esimerci alla fine da avere un nostro individuale giudizio, cioè pensare con la nostra testa. Quindi questa è una responsabilità individuale che non possiamo riferire ad altri. Detto ciò, io vedo la situazione in termini piuttosto chiari. Da una parte, come piccolo risparmiatore italiano, ho un'occasione di avere rendimenti interessanti a breve sul titolo denominato in euro. E qua una piccola parentesi, attenzione, l'euro negli ultimi 6 mesi, con tutta la tempesta che abbiamo, si è rivalutato praticamente contro tutte le altre valute, se escludiamo il franco svizzero. E questo è anche un segnale importante, ricordiamoci che la Cina comunque ha bisogno della diversificazione dal dollaro, quindi essendo a maggior ragione in un paese che esprime prime praticamente con i propri costi in euro, un investimento nell'arco di 2 fino a massimo di 3 anni è senz'altro un buon investimento. Se ci si sposta più là nella, nell'osservazione temporale, allora mi devo chiedere, a 5-10 anni affido i miei risparmi a delle entità che poi sono stati, che hanno degli indebitamenti superiori e delle spese superiori a quelli che sono i loro introiti, o magari faccio riferimento a aziende, quindi private e non pubbliche, diversificate in tutto il mondo, che quindi scelgono loro che rischio paese andarsi ad allocare, e a questo punto però magari più di un'obbligazione che mi paga meno del titolo di Stato entrare sul rischio azionario. Noi italiani abbiamo una grande avversione da sempre sull'investimento azionario perché siamo suscettibili della volatilità della borsa, ma un investimento a lungo termine su grandi società multinazionali solide senz'altro ha le migliori prospettive. È anche vero che in un momento come questo comunque prendere delle posizioni coraggiose sul mercato azionario appare, come dire, un suggerimento che magari per un piccolo risparmiatore può sembrare forse non completamente appropriato. Mario Spreafico, solamente perché ancora comunque la borsa ci dà questa idea di volatilità così forte. Le banche venerdì scorso, con quelle due giornate tra venerdì e lunedì che hanno vissuto, hanno cancellato il guadagno che avevano recuperato nel giro di 2 anni, quindi, come dire, è anche effettivamente un suggerimento forte da dare agli ascoltatori. Chi ha ha avuto o investe sui mercati azionari sicuramente sa che può andare incontro a delle variazioni più o meno violente, quindi di subire delle perdite o anche dei guadagni. Il punto fondamentale è credo che sia la caratteristica un po' di questa crisi che ripeto parte dal 2008 e che colpisce proprio la certezza del piccolo risparmiatore, che è sempre stato abituato a percepire i propri investimenti, i propri strumenti, che sono titoli di Stato, quindi strumenti molto semplici, che sono sempre stati definiti ad alto grado di affidabilità, ma lo sono tuttora, a vedersi deteriorare in parte o in minima parte il proprio valore di patrimonio. Pensiamo al 2008, chi investiva nelle obbligazioni bancarie americane o anche italiane, europee, dove non hanno mai avuto effettivamente e non hanno tuttora dei grossi problemi, però hanno subito delle grossissime e fortissime variazioni. Poi non ne parliamo del caso Lehman, che dove fino a prova contraria, un mese prima del fallimento, era un'obbligazione investment grade, poi con tanti se e ma, però di fatto è stato a quel tipo di categoria. Quest'anno ci troviamo di fronte al piccolo risparmiatore che investe nello strumento più definito, tranquillo e sicuro al mondo, che è il titolo di Stato, e si ritrova con delle variazioni in portafoglio. Ora, questa è la caratteristica di questa crisi. Io non credo che il piccolo risparmiatore deve cambiare orientamento o questo principio di fondo, quindi sbaglia se percepisce quello che è stato l'investimento tradizionale, diciamo di basso profilo di rischio, cambiato. Ecco, sono cambiate delle dinamiche dei mercati che purtroppo pongono ancora una volta in essere queste grosse variazioni che colpiscono anche questi strumenti che fino a qualche decennio fa erano assolutamente preservati da ogni tipo di variazione. Quindi non deve assolutamente cambiare, continuare nella strategia in base al proprio profilo di rischio e ritenere che quelli che sono gli strumenti tradizionali semplici dello Stato o anche di banche primarie, quindi obbligazioni primarie anche di emittenti societari, devono continuare a mantenere. Ecco, quello che deve cambiare da un punto di vista del risparmiatore è la propensione all'informazione, cioè deve essere sempre più informato, ripeto, perché è un mercato che è completamente cambiato e probabilmente cambierà ancora nei prossimi anni. Detto questo, stiamo parlando della situazione sui mercati, cercando di dare qualche indicazione utile, speriamo, anche se è molto difficile anche per noi fare questo lavoro in questo momento, ai nostri ascoltatori che ovviamente temono per il proprio risparmio, soprattutto coloro che avevano cercato porti sicuri e inossidabili, hanno scoperto, mi riferisco soprattutto al titolo di Stato negli ultimi mesi, che anche questo finisce sulle montagne russe, anche se si ha un investimento modesto in questo settore, un investimento fatto con l'idea di preservarlo al massimo, si è scoperto appunto che invece si può scendere rapidamente nel valore di questo portafoglio per poi magari recuperarlo, però insomma anche il titolo di Stato è finito sulle montagne russe, così abbattendo un po' di convinzioni molto radicate nei piccoli risparmiatori in particolar modo. Sentiamo Giancarlo d'Arezzo, come ha organizzato il suo risparmio in questo momento e quali sono i suoi dubbi. Giancarlo, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, sì. Io desidererei sapere, se possibile, per quanto riguarda le gestioni patrimoniali, capire se in questo momento, vista la situazione dei mercati e l'incertezza internazionale sia in Europa che in America, se è il caso di tenere oppure di uscire cercando di limitare magari le perdite e rientrare magari in un periodo successivo quando si pensa che le cose magari possono essere, come dire, andare meglio o risolte. E poi vorrei chiedere un'altra cosa. Io ho delle obbligazioni Unicredit che ho sottoscritto nel 2008, febbraio 2008, con scadenza 2014, febbraio 2014, che non vanno molto bene. I rendimenti in quel periodo, quando le ho sottoscritte, si avvicinavano a un 4,50% netto, attualmente invece sono Euroribor 6 mesi più uno spread dello 0,20. Quindi vorrei capire, siccome è una cifra abbastanza interessante, piuttosto interessante, se è il caso di magari tenerle, ecco, le prospettive di quelle che possono essere la crescita dei tassi, magari quindi i rendimenti andrebbero a migliorare, oppure se magari vendere, che attualmente io credo il valore possa essere intorno a 96-97 punti su 100, o aspettare la scadenza che è il febbraio 2014. Allora Giancarlo, io le devo dire subito, lei lo sa bene, non possiamo dare dei suggerimenti di acquisto, vendita di propri prodotti di investimento in maniera così, così secca. Posso cercare appunto di chiedere ai miei ospiti dei suggerimenti di massima su come comportarsi in questo momento. Chiaramente poi per dare dei suggerimenti appropriati bisognerebbe anche valutare con molto dettaglio la composizione delle sue gestioni patrimoniali, quindi adesso cerchiamo un po' di capire sulla base dei dati suoi personali, anche che suggerimenti trarre dalla sua situazione personale, appunto, che possono valere anche per tutti i nostri ascoltatori. Comincio dall'ultimo prodotto di investimento dell'ascoltatore, è un'obbligazione Unicredit. Non interveniamo sul singolo prodotto, andiamo sul tema dell'obbligazione bancaria in termini generali. Mario Sprefico, ritorno un attimo da lei, per poi sulla gestione patrimoniale vado invece da Francesco Tarabini Castellani. L'obbligazione bancaria è stato sicuramente un grande cavallo di battaglia degli ultimi anni, perché le banche, non potendo fare raccolta in maniera diversa, ne hanno ovviamente collocate molte fra la propria clientela. Che stato di salute sta vivendo questo prodotto di investimento in questo momento? Ma io non vedo nessun tipo di problema per quanto riguarda le obbligazioni bancarie, anzi credo che proprio in questi ultimi, con i movimenti delle ultime settimane, sono diventate ancora più appetibili in certi aspetti. Certamente adesso subiranno e stanno subendo la concorrenza dei titoli di Stato, e questo è un elemento fondamentale, cioè quindi il dover comparare il rendimento dell'obbligazione bancaria al rendimento dei propri titoli di Stato può essere una soluzione interessante, perché chiaramente con i rendimenti così alti dei titoli di Stato italiani, soprattutto nel breve termine, ci possono essere effettivamente delle divergenze, e quindi uno può pensare se eventualmente come diciamo comparare questi due rendimenti. Ripeto, però, per un piccolo risparmiatore che ha investito in un'obbligazione bancaria, soprattutto mi pare di capire a tasso variabile, quindi è un titolo indicizzato all'Euribor, siamo, pur nonostante questa situazione, ci sono stati dei rialzi dei tassi, quindi l'Euribor è leggermente aumentato, non vedo nessun tipo di motivazioni per poter per cambiare la strategia. Lei la porterebbe a scadenza. Ecco, se il profilo di rischio però del cliente, questo, se il cliente è stato fortunato, diciamo così, di aver avuto degli investimenti assolutamente prudenti, ma perché la sua intenzione dover dismettere qualcosa per entrare in qualcosa di più rischioso, allora il ragionamento è diverso, quindi può approfittare magari di questo momento, soprattutto dei mercati azionari, così di poter eventualmente ritornare al suo profilo di investimento iniziale. Ecco, ma questa è l'unica strada. Ma la maggior parte degli investitori che non sono stati così fortunati da vedere, diciamo, di essere stati in parcheggio, chiamiamolo, per un po' di tempo, sono nella maggior parte dei casi molto pochi in questo momento. Quindi... Francesco Tarabini Castellani, la prima domanda del nostro ascoltatore invece chiedeva così, pur non avendone conoscenza sulla composizione, come riorganizzare la sua gestione patrimoniale, se addirittura, come dire, chiudere, liquidare completamente le sue posizioni e per magari così monetizzare e dirottare il suo risparmio su altri strumenti di investimento. Che tipo di consulenza farebbe a questo ascoltatore che ha delle domande di questo tipo? Beh, io do per ipotesi che si tratti di una gestione patrimoniale, diciamo, bilanciata, quindi con un po' di obbligazioni, un po' di azioni, un po' di liquidità, perché sennò senza permessi è difficilissimo fare una valutazione. Certo. E mi ricordo a quello che dicevo prima, io non ho detto a 10 anni che è interessante comprare il mercato, assolutamente no, io ho detto che vi sono alcune aziende che sono estremamente interessate sul lungo termine. Allora, la gestione patrimoniale senz'altro è uno strumento, direi, importantissimo in una situazione di volatilità come questa dei mercati. È però fondamentale che la gestione abbia un approccio attivo, cioè che il gestore si impegni che non è una promessa nei confronti dell'utente, a cercare comunque di non fargli perdere il denaro sostanzialmente, e quindi una gestione che può avere diversi profili di rischio, ma un impegno di base a difendere il capitale, quindi non una cosiddetta gestione a benchmark che segue un po' purtroppo anche passivamente l'andamento del mercato che è volatile. Detto ciò, i fatti parlano da sé, la situazione è talmente complessa per cui anche gli specialisti che sono costantemente sul mercato hanno grandi difficoltà, quindi o uno fa un atto di fiducia nei confronti di alcune realtà aziendali che personalmente ritiene estremamente valida, oppure non può che affidarsi al giudizio di un intermediario che deve assolutamente comunque conoscere e anche un po' provocare chiedendo la composizione costantemente di questo prodotto. Un ascoltatore ci scrive: parlate dei fondi per favore, così in termini generali mi sembra una domanda un po' troppo vaga. Stesso discorso, cioè, c'è di tutto, ci sono i buoni, i cattivi, ci sono gli approfittatori, non ci si può esimere dall'entrare nel merito e dall'analizzare la situazione, e la pretesa che un investitore deve fare, se come è il caso non può farlo da solo, è di farselo spiegare dal suo consulente, che ha questo dovere, proprio il suo lavoro. Paolo da Roma suggerisce in maniera secca il pack azionario, per lui è la ricetta migliore per posizionarsi in questo momento sul mercato, sicuramente acquistando a rate la borsa si può riuscire a spuntare comunque in un raggio di tempo ragionevolmente lungo rendimenti interessanti. L'ultima domanda è quella di Gianni da Torino, ma la deve fare veramente in 3 secondi. Gianni, buongiorno. Buongiorno a voi, volevo solo sapere qual è l'impressione dei vostri specialisti sul rapporto euro-franco-svizzero. Mm-mm. Io sono un commerciante, importo prodotti alimentari dalla Svizzera, li pago in valuta e questo, certo, è un momento drammatico. Quanto è influenzato dal fatto che si acquista il franco per ragioni di rifugio, di valuta rifugio, e pensate che possa arrivare alla parità? Grazie a Gianni da Torino. Francesco Tarabini Castellani può ragionevolmente pensare che questa domanda la faccia lei. Assolutamente, allora, il franco svizzero è sopravvalutato, di qua non si esce, purtroppo però c'è addirittura il rischio che si arrivi alla parità, perché vi è una richiesta mondiale di stabilità e sicurezza che da 700 anni sta offrendo, seppure con i suoi difetti e con la sua immobilità, la Svizzera, che ha un'appetibilità incredibile, quindi ragionando in franchi svizzeri occorre proteggersi dal rischio del cambio, seppure secondo la logica di fondamentali è assolutamente, come peraltro potremmo anche dire dell'oro, che pure non è un valore reale, sopravvalutato. 3 secondi con Mario Spreafico, le borse scendono, il debito sovrano, quindi l'Eurozona combatte con tutta una serie di problemi, come fa ad avere spazio l'euro a crescere così tanto sul dollaro? È tutto un problema legato al debito americano? Ma assolutamente, il problema non è l'euro, ma è il dollaro e soprattutto questa dinamica anche dei tassi di interesse completamente diversa. Il differenziale dei tassi è a favore dell'Europa e quindi per definizione tende, come dire, a rafforzare l'euro, e quindi in questa situazione si crea una dinamica anche abbastanza perversa, che porta a approfittare, diciamo, altre valute come ad esempio il franco svizzero. Grazie a Mario Spreafico. Prego, Francesco Tarabini Castellani per essere stati con noi. Abbiamo chiuso la settimana parlando di borse, temi che troveranno spazio sicuramente anche domani su Plus 24 del Sole 24 Ore. Ve lo segnalo soprattutto sui focus che tutti i colleghi del Sole stanno facendo in questo periodo sulle ricette da dare ai piccoli risparmiatori per gestire con tranquillità questo momento così delicato. Grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Paolo Corleone in assistenza tecnica. Torniamo lunedì, buon weekend a tutti.